Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri sera abbiamo parlato di una nuova tecnologia laser messa a punto dall'Enea che consente di analizzare rapidamente, in modo non distruttivo, gli alimenti in relazione alla presenza di adulterazioni o frodi alimentari. Attualmente questo tipo di analisi richiede il prelievo di campioni che vengono poi portati in laboratorio, dove appunto il processo di analisi è lungo e laborioso. Il sistema messo a punto dall'Enea è invece in grado di analizzare un alimento direttamente in loco, per esempio sui banchi del supermercato, in pochi secondi o al massimo in qualche minuto. È basato sull'utilizzo di un laser molto sofisticato che viene puntato sull'alimento da analizzare, per esempio una mela, regolato in modo da eccitare le molecole, delle precise molecole che si stanno cercando. Se queste sono presenti, il riflesso del laser, diciamo così, avrà delle caratteristiche peculiari che un opportuno sensore è in grado di cogliere e segnalare immediatamente. Ma Cicero, questo è il nome del prototipo messo a punto fin qui dall'Enea, è solo il primo passo verso lo sviluppo di una serie di strumenti che, come vedremo sempre più spesso in futuro, permetteranno di sfruttare il laser per effettuare rapide e precise analisi chimiche degli alimenti. E allora, per parlare anche di questo possibile futuro, diamo il bentornato ad Adriana Puglio, ricercatrice del Laboratorio Diagnostiche e Metrologia dell'Enea, che ha sviluppato Cicero. Buonasera Puglio, bentornata. Bentrovati. Allora, dunque, poi partiamo da Cicero. Qual è lo stadio di sviluppo oggi come oggi? Che cosa anche può fare Cicero, così com'è? Allora, finora abbiamo messo a punto il prototipo di laboratorio, appunto Cicero, e l'abbiamo testato su diversi adulteranti alimentari, come abbiamo detto nella puntata precedente, l'istamina, la melamina nel latte, il metanolo nel vino, e adulterazione dell'olio extravergine d'oliva con oli vegetali a basso costo, eccetera. E questo prototipo può essere messo su un carrello, tipo il carrello della spesa, e così come è molto versatile e può essere impiegato dalle industrie che vogliono i controlli fare di qualità e nelle catene di distribuzione che puntano a mantenere un elevato standard di qualità. Quale sarà invece il prossimo sviluppo? Su che cosa vorreste lavorare a questo punto, a partire da questo prototipo? E in questo momento siamo in fase di sperimentazione, anche con la messa a punto di un sistema più compatto, quindi un sistema trasportabile, maneggevole per analisi rapida e precisa, un sistema da poter essere messo addirittura in una valigetta. Perfetto, e questo potrebbe essere utile proprio alle forze dell'ordine, tipicamente in questo caso per i controlli alimentari. Senta, è stato presentato un brevetto, a questo punto che cosa succede? Rimarrà in un cassetto, come purtroppo a volte capita? Ma noi speriamo che ci sarà un interesse da parte di qualche investitore per poter portare avanti e mettere proprio sul mercato questo apparato, sostanzialmente questo apparato, questo sviluppo tecnologico, sì. Che abbiamo capito, insomma, bisogna al limite di una fase di industrializzazione. In realtà un'offerta l'avete ricevuta, no? Abbiamo ricevuto per ora un'offerta dagli Stati Uniti, dalla California. Un investitore si è mostrato molto interessato a sviluppare e mettere sul mercato il nostro l'apparato, però per ora dall'Italia tutto tace. E tra l'altro c'è anche un'altra prospettiva, oltre la valigetta, che è estremamente affascinante, sulla quale già state cominciando a ragionare. Ovviamente i sviluppi futuri delle sorgenti laser non escludono di creare anche sistemi miniaturizzati e app per smartphone che permettono addirittura al consumatore di fare in pochi secondi uno screening del cibo che sta per acquistare. Quindi un domani potremmo, dipende se si risolvono alcune problematiche tecniche che ci sono nel campo delle sorgenti laser, potremmo avere a disposizione uno strumento del genere, no? Puntiamo il nostro cellulare sulla mela e questa ci dice se ci sono dei contaminanti di qualche tipo. E beh, insomma, visto che siamo sulla radio di Confindustria, ci auguriamo che qualcuno magari possa farsi anche sotto. Grazie per intanto Adriana Puglio. Grazie a voi. Bene, prima di lasciarci, abbiamo ancora qualche secondo, vale la pena di segnalare che le tecnologie basate sul laser non sono le uniche in arrivo che permettono di analizzare alimenti e persino esseri viventi in qualche caso in modo sicuro, rapido e appunto non distruttivo. Tra le tecnologie che si stanno sviluppando a questo scopo ci sono anche quelle che puntano sulla cosiddetta risonanza magnetica nucleare, quindi lo stesso principio utilizzato per l'omonimo esame medico, ma naturalmente con apparecchiature molto più piccole e meno sofisticate, con campi magnetici molto meno intensi, che tuttavia consentono di fare analisi, per esempio di determinare il livello di umidità di un alimento, ottenere informazioni sulla cosiddetta shelf life, e quindi quanto gli resta da vivere a questo alimento, e addirittura è possibile indagare eventuali, per esempio, segni di stress idrico su frutti e piante ancora in campo. Insomma, la qualità degli alimenti avrà sempre più alleati nella tecnologia. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì. A voi tutti, buon fine settimana.